Allora, intanto siamo praticamente in famiglia in questa presentazione ed è molto bello perché infatti la spinta a fare questa seconda presentazione per noi Peperoncini era proprio dall'assemblea di Xavier 24 che aveva curiosità di conoscere un po' meglio la storia in parte, ma soprattutto le pratiche dell'autonomia e dell'autogestione degli zapatisti, su cui io e non solo ho parecchio parlato, spesso faccio interventi da spiegare, dovremmo fare come gli zapatisti, perché appunto come loro ritengo che abbiamo creato la nostra piccola autonomia. L'abbiamo creata per 17 anni in via Fioravanti 24, abbiamo esportato questo tipo di pratica e di, appunto, di modo di relazionarci a noi stessi, al mondo e agli altri, anche in questo nuovo spazio di via di questa ex caserma. E, gli zapatisti sono appunto per me, ma penso per tanti che hanno la possibilità di conoscere, un esempio di dignità rebelde, come dicono loro, perché hanno avuto anche la capacità in 25 anni di storia di creare un immaginario, anche un vocabolario, no? Che è legato, che è a loro legato, la scritta che ora campeggia sul muro di cinta di entrata di questo spazio, todo para todos, nada para nosotros, è appunto parte di questo immaginario anche linguistico che gli zapatisti sono stati capaci di creare, di questa parte appunto della loro storia, perché certo la loro presa di potere è stata anche armata, quindi è stata legata anche a un esercito che tuttora esiste, che è le ZLN, esercito zapatista di liberazione nazionale, ma è un esercito che è assolutamente sottomesso, sottoposto al pueblo, tant'è che Marcos e tutti gli altri che hanno ruoli di comandanza si chiamano subcomandanti, quindi là è il pueblo che manda, il governo obbedisce, ma anche l'esercito obbedisce al popolo. Quindi insomma, tanti aspetti dell'autonomia zapatista proviamo appunto a riprodurli qua, cioè con le possibilità chiaramente che il differente contesto ci dà. E quindi sicuramente appunto quello che ci piace tantissimo degli zapatisti, della loro autonomia, è che non gli interessa conquistare il potere, e anche per noi è così, nessuno di noi fa parte di partiti politici o ha intenzione di farne parte, questo spazio non vuole diventare un movimento politico perché non ci interessa la conquista del potere, ma ci interessa appunto mantenere questa nostra autonomia e questo appunto angolo di libertà che ci ritagliamo. Il fatto che gli zapatisti non hanno mai chiesto un riconoscimento da parte delle istituzioni, anzi hanno chiesto appunto di essere lasciati in pace a gestirsi il loro spazio così come essi volevano, ed è quello che noi abbiamo sempre richiesto appunto e in parte ottenuto, anche perché nella lunga storia di XM24 ci sono i 3 anni in cui c'è stata una convenzione, quindi un riconoscimento un po' più formale, era una convenzione che comunque riconosceva come organo decisionale un'assemblea orizzontale autogestita, quindi in un certo qual modo siamo riusciti con delle piroette, degli equilibrismi, anche in quel caso a mantenere, diciamo, metterci scevri dalla necessità per forza di essere riconosciuti come associazione o tramite un bando o insomma, ogni forma diciamo legale, perché riteniamo che non sia necessario, così come gli zapatisti, no? Un'altra cosa è quella dell'orizzontalità e del metodo del consenso, metodo che a volte ci costano un poco, infatti ci piacerebbe che i ragazzi della Pirata insomma ci raccontassero un po' meglio come accade nelle comunità zapatiste. Noi abbiamo fatto tempo fa addirittura una formazione, perché le SNDXM sono cresciute numericamente, ci siamo trovate a essere più di 90 persone nel periodo diciamo precedente, nell'anno precedente allo sgombero, e anche al giorno d'oggi non è semplice. Non siamo campesinos, perché va detto che per i campesinos questo consenso fa parte delle loro tradizioni, cioè si è sempre diciamo in un certo qual modo deciso così, mentre diciamo nel mondo occidentale di solito la decisione viene presa per maggioranza, no? Quindi non è semplice, non è evidente entrare in questo tipo di dinamica di orizzontalità, ci abbiamo sempre provato e ci proviamo, ed è un'altra cosa che mutiamo, che prendiamo anche da appunto dallo zapatismo e dalle loro forme. Un ultimo aspetto che voglio sottolineare prima di passare a parlare ai compagni è la forza della comunità, cioè quando nel 94 c'è stato il levantamento zapatista, è vero che avevano le armi, è vero che sono scesi armi poi tipo gli schioppi del nonno, quelli per andare a caccia, però sì, erano armati e c'era diciamo una discesa in forze su San Cristóbal de las Casas, che era la capitale dello stato del Chiapas, ma è anche vero che si sono immediatamente ritirati da quella città proprio perché non gli interessava la presa del potere, sono stati immediatamente repressi, gli hanno mandato l'esercito, li hanno cominciati a far fuori. Quello che ha fatto la differenza è stata la solidarietà locale, nazionale, internazionale enorme, immensa, che si è creata e che anche loro hanno saputo poi sviluppare, rinforzare in particolar modo con quell'utilizzo delle parole di cui diceva all'inizio, no? Quella narrazione che sicuramente è passata anche tanto per una figura come Marcos, che non è un campesinos, ma è un professore, non si sa, però è diciamo un professore, si sa, perché non si sa che era un professore universitario di Città del Messico, che in un periodo di repressione è andato fra gli indigeni, si sono appunto contaminati a vicenda. Quindi la forza della comunità è quella che allora come oggi permette a questa esperienza di esistere, e io ci ho visto un parallelismo enorme con quello che è stata la situazione di Xenia, ovvero è stata la forza di quella comunità e di quella, come dire, orizzontalità e inclusività che siamo riusciti a creare nel nostro spazio là e a trasportare anche mentre uno spazio non ce l'avevamo, quindi banalmente nel parchetto o nelle cose che abbiamo organizzato da agosto fino al 15 novembre, che ora le troviamo qua. Quindi i zapatisti sono sicuramente per noi fonte di ispirazione, non siamo indigeni, non siamo campesini, per campesinos. Quando usciamo da qua abbiamo la nostra vita, diciamo, come dire, con tutte le applicazioni, le schifezze, le contraddizioni, mentre loro sono riusciti a creare un'autogestione anche in tutti gli aspetti dell'esistenza, quindi dal cibo, e quindi hanno tutte queste forme di, appunto, di autosussistenza, autarchia alimentare, alla gestione della salute, alla gestione della scuola, dell'educazione, anche perché il Chiapas ve lo dovete immaginare come un posto dove non c'è niente. Cioè Chiapas è, vuol dire, non c'è elettricità, non c'è acqua, in tanti villaggi ci sono, la viabilità è limitata, e quindi chiaramente per loro è stata proprio una, appunto, una rivendicazione sulla dignità della propria vita. Anche noi vogliamo avere, come dire, una vita degna, però non vogliamo elemosinare a voi, che tanto non ce lo date, non ve ne frega niente, niente qua, solo per sfruttare le risorse naturali di quel ricco territorio, e ce la creiamo lì. Quindi lascio la parola ai ragazzi per raccontarci un po' questa cosa. Bene, grazie ancora, ciao a tutte e tutti, io sono quello di prima. Farò un breve discorso storico per poi passare la parola a compagno che magari si incentra di più sulle pratiche relative all'autonomia zapatista in Messico. Messico è un paese dove tra a cavallo tra il 1910 e il 1911 c'è stata una rivoluzione che potremmo definire una rivoluzione tradita, una rivoluzione a metà, in quanto la proprietà dei mezzi di produzione continuerà a essere appannaggio di una grossa fetta di borghesia interna e della sua accumulazione di capitale. Però è anche un momento storico molto importante politicamente, soprattutto per via delle spinte rivoluzionarie, poi represse, che ha avuto spazio interno, spinte rivoluzionarie legate in particolar modo a due figure, quella di un bandito chiamato Pancho Villa e di un baccaro chiamato Emiliano Zapata. Zapata in particolar modo aveva letto La Generazione, che era il quotidiano di un intellettuale rivoluzionario messicano chiamato Ricardo Flores Magón, anarchico, libertario, e Zapata e Magón purtroppo non si sono mai incontrati. Però Magón aveva tradotto i russi della prima rivoluzione del 1905 e aveva importato in Messico il concetto di terra e libertà, e che poi sarà ripreso in seguito nella lotta contro Franco in Spagna nel 1936. E Zapata, quindi, e i zapatisti fanno proprio questo concetto, in quanto la terra era chiaramente di chi la lavorava, e questa cosa la faranno sempre presente, tant'è che si arriva alla stesura della grande Costituzione del 1917, in cui all'articolo 27 tutte le varie forze rivoluzionarie che hanno composto quel grande movimento che ha portato alla destituzione di Porfirio Diaz scrivono questa Costituzione e si vedono costretti all'articolo 27 a fare quella che probabilmente sarà la riforma agraria più all'avanguardia dopo quella cubana, ovvero la concessione di appezzamenti di terra a nuclei familiari, cioè la cessione della terra, invendibili e incedibili. Questa cosa chiaramente viene fatta in termini controrivoluzionari per punterare lo zapatismo, perché quello che Zapata aveva sempre predicato, che gli zapatisti avevano sempre predicato, era invece l'occupazione diretta delle terre. Quindi per evitare un ulteriore focolaio, si cedono le terre a questi nuclei familiari indigeni. Terre che non arrivano comunque, arriveranno forse alla fine degli anni 20, con Cárdenas, che sarà il fondatore del Partito Rivoluzionario Istituzionale, e arriveranno solo attraverso una serie di logiche clientelari estremamente democristiane. Quindi non arrivano queste terre e ovviamente gli zapatisti se ne fregano e cominciano a occupare le terre direttamente nel 1917, senza nemmeno aspettarle, proprio subito dopo la stesura della Costituzione, e vengono occupate delle terre soprattutto nello stato di Morelos. Lo stato di Morelos era lo stato di Zapata, e nasce un grande laboratorio politico, una grande esperienza chiamata la Comune di Morelos, dove vengono occupate le terre e c'è una sorta di autogoverno che viene formato attraverso una confederazione dei differenti villaggi, e questa sarà una modalità di governo che verrà poi ripresa e perfezionata dai neozapatisti di oggi. E Comune di Morelos, ovviamente non c'è bisogno nemmeno di dirlo, durerà dal 17 al 19, repressa chiaramente, e nel sangue. Zapata verrà assassinato, Pancho Villa verrà assassinato. Però questa cosa dei fidos, di questi appezzamenti di terra concessi, teniamola a mente perché sarà molto importante in seguito. Taglio molto con l'accetta e facciamo un volo e arriviamo fino a notte, no? Non riusciamo nemmeno domani, e arriviamo al 1968. Il 68 scoppia ovunque, e scoppia anche in Messico. Plazas de las Tres Culturas, grande manifestazione oceanica degli studenti, repressa nel sangue, l'esercito e la polizia sparano sulla folla, sarà un massacro ignobile, abbiamo oltre 300 morti, e nemmeno stiamo a parlare dei desaparecidos che si avranno in quella giornata, alla grande strage di Tlatelolco. E è un momento molto importante per la storia politica del Messico, perché è uno spartiacque, in quanto in quel momento l'estrema sinistra messicana decide di abbandonare definitivamente la via politica per il cambiamento e per intraprendere quella che è la via armata. C'è quindi un proliferare di guerriglie che incendieranno tutto il territorio messicano, in particolar modo Oaxaca, in particolar modo Guerrero, soprattutto attraverso due figure di spicco che saranno quelle di Genaro Rojas e di Lucio Cavagna. E soprattutto nella fine degli anni 70, tutte queste guerriglie che saranno bene o male represse attraverso una serie di fucilazioni, stupri, violenze varie, si ritroveranno in un'organizzazione molto importante che nascerà nel nord del Messico, che è quella dell'FLN, Fuerzas de Liberación Nacional. Il nord del Messico, sono ormai negli anni 70 e fine anni 70, ha diverse similitudini con il contesto italiano. Cioè, una classe operaia molto forte e un partito comunista estremamente corrotto e sempre più schiacciato verso la destra. E a questo punto si apre un dibattito all'interno dell'FLN, ovvero se continuare attraverso una via leninista, ovvero di organizzazione del proletariato urbano, oppure intraprendere una via maoista per organizzare le campagne. A questo punto si stacca un manipolo di compagni, sono banalmente sei, passava poco certe volte per accendere una scintilla, e cinque compagni e una compagna, e tre indigeni e tre meticci, che si staccano, sono sei, e partono verso il sud del paese con lo scopo di innescare un fuoco guevarista in Chiapas. È il 17 novembre del 1983 e diciamo nasce quello che sarà poi l'esercito zapatista di liberazione nazionale. L'anno dopo, l'84, si aggiungerà un settimo compagno, il suo comandante Marcos, e iniziano 10 anni di lavoro clandestino, villaggio per villaggio, casa per casa, molto spesso essendo molto importante in queste zone quella che è la teologia della liberazione, si usano i predicatori, no? Perché un indigeno, un'indigena da sola nella selva la candona, o predica o sta facendo un'altra cosa, e quindi si cerca di mascherare il tutto attraverso quella che è la predicazione, in particolar modo in questa immagine bellissima di questa ragazza che va di villaggio in villaggio a predicare, una donna che non imparerà mai nemmeno lo spagnolo e che poi prenderà il nome di battaglia di Ramona, sarà poi comandante dell'esercito di liberazione nazionale, che era una predicatrice e che però sotto sotto non fa nient'altro che tessere il lavoro clandestino dell'esercito rivoluzionario. E è un lavoro molto complesso, perché questi sei arrivano e dicono: adesso andiamo a evangelizzare, a indottrinare al marxismo i poveri indigeni del sud del mondo. Indigeni gli dicono: anzi, la romana, in realtà noi sono 500 anni che resistiamo, non è che arrivate a dirci come si resiste. E quindi uno scontro, si verifica uno scontro dialettico molto duro. Questo lo racconta bene Marcos in quelli che sono, vi consiglio tra l'altro di leggerli, i racconti del vecchio Antonio, lo scontro del viejo Antonio. Ce l'abbiamo un po' al banchetto. Ma poi ci stanno dei racconti al banchetto, andate a comprare. Dove praticamente quello che Marcos dice: noi siamo andati come un quadrato, no, volevamo fare la campagna acquisti. Sì. Sì. Come ci arrivi sempre. Sì, sozzi. Siamo arrivati come un quadrato e siamo stati verso quello che voleva essere il nostro progetto rivoluzionario di riferimento, invece siamo stati presi letteralmente a martellate che hanno smussato gli angoli e ci hanno fatto diventare un cerchio. Quindi dalla commissione di elementi ancestrali relativi alla cultura maya e elementi socialisti o marxisti che venivano dalla città, da questa fusione che nasce le ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale, che quindi da subito denota una certa malleabilità, cioè un certo spirito di riadattare e di rimodulare il discorso rispetto alla fase e rispetto all'interlocutore con cui di volta in volta ci si trova a relazionarsi. Quindi 10 anni di clandestinità fino ad arrivare a quello che è una delle prime cose che rimodulano, appunto questa della presa di potere, no? Arrivano come una guerriglia che andiamo a conquistare il potere, come in quegli anni appunto spopolavano in America Latina e non solo, lì dell'incontro con gli indigeni che dicono: no, la città del Messico, ma dove cazzo sta, non ci interessa, noi vogliamo essere liberi e indipendenti qua. Quindi questo è il primo cambiamento molto forte, no? Se puoi dirci qualcosa di tuo. Tra l'altro mi hanno scordato un piccolo particolare, già nel 92 viene toccato l'articolo 27 della Costituzione messicana degli Ejidos, che sarà importantissimo, in cui gli Ejidos, questi appezzamenti di terra, possono iniziare ad essere venduti. Quindi molti indigeni o comunque persone molto povere, soprattutto in Chiapas, che Chiapas insieme a Guerrero e a Oaxaca è uno dei stati più poveri del Messico, iniziano a vendere questi appezzamenti di terreno. E quindi le imprese straniere iniziano lentamente ad allungare le proprie griffie nel territorio messicano. Ecco, questa cosa farà aumentare a dismisura quelle che sono le fila delle ZLN, che il 1 gennaio del 1994, in concomitanza con l'entrata in vigore del NAFTA, il trattato di libero commercio tra Stati Uniti, Canada e Messico, che doveva sancire la pompa magna internazionale di grandi celebrazioni, l'entrata e l'ingresso del Messico nel primo mondo, le ZLN sale alla luce del sole, dichiara guerra allo Stato messicano e occupa 7 cabeceras municipales del Chiapas, 7 capoluoghi chiapanechi. Ne scaturiscono 12 giorni di guerra violentissima e si occupa San Cristóbal de las Casas, che è una città molto importante del Chiapas. Dal municipio viene letta la prima dichiarazione della Selva La Candona, in cui si invita il popolo del Messico a prendere le armi, a seguire i zapatisti, arrivare a Città del Messico, marciare su Città del Messico, entrare al Palazzo Nazionale e destituire il potere da 40 anni nelle mani del Partito Rivoluzionario Istituzionale. I zapatisti si dicono una cosa: o Le ipotesi sono due: verso il mandato, o vinciamo, il popolo ci segue, sbraghiamo tutto, entriamo a Città del Messico, entriamo a Palazzo Nazionale, fuoco, oppure nessuno ci segue e ci ammazza. Due erano le opzioni. Si verifica in realtà, nessuno se l'aspettava, una terza opzione, ovvero il popolo del Messico prende sì le parti degli zapatisti, però non prende le armi. Sì, ok, abbiamo capito quello che volete, non sappiamo però chi siete. Innanzitutto, poi l'esercito messicano entrava nelle comunità, entrava nei villaggi, anche quelli non zapatisti, non legati alle ZLN, e si stava iniziando a macchiare di crimini terrificanti: villaggi incendiati, fucilazioni di massa, stupri di massa. Lo stupro è sempre stato un'arma politica in Messico, in fin dei conti. E grazie ai mezzi di comunicazione cominciano ad essere all'avanguardia, secondo la tradizione della mamma, la gente inizia a sapere queste cose. E quindi si creano delle manifestazioni oceaniche pacifiche, dove chiedono una tregua, dove chiedono al governo delle ZLN di accordarsi, chiedono al governo di fermare le violenze, però chiedono anche alle ZLN di presentarsi. E lì c'è un'altra modifica strutturale nel DNA zapatista. Si fermano un attimo e dicono: ok, la società civile è cambiata. La società civile non è più abituata a quello che poteva essere il sogno rivoluzionario di una volta, la società civile non è più disposta a prolungate guerre civili. E lì capiscono che devono rimodulare nuovamente il loro pensiero. Cioè, immaginate, di volta in volta così, c'è uno stress allucinante. E quindi si siedono a tavolo di trattativa con il governo. E partono quelli che sono gli accordi di San Andrés tra il governo e le ZLN, accordi di San Andrés che prevedono delle modifiche costituzionali in termini di autonomia indigena. Il governo firma gli accordi però non li rispetta. Da quel momento in poi le ZLN dirà: ok, perfetto, col governo, con le istituzioni noi non vogliamo più averci niente a che fare, non ci interessano. L'autonomia noi ce la prendiamo e ce la strappiamo da subito. E nel 96, sempre danno luogo, in fondo, una nuova linfa, e ricreano quello che era il CNI, il Congresso Nazionale Indigeno, proprio perché, come lo dicevamo nello scorso, nel dibattito precedente, gli zapatisti hanno sempre detto: noi non possiamo scrivere un'agenda di lotta nazionale anche per il pueblo Yaqui del nord del Messico, perché è una geografia completamente distante dalla nostra, è un popolo che ha necessità di esigenze, proprio in termini di contesto, diversi dalle nostre, che era questo congresso nazionale indigeno, che è, appunto, ripeto, il governo delle lotte indigene, è l'assemblea delle lotte indigene in Messico, che aderiscono chiaramente alle rivendicazioni degli zapatisti, con cui scrivere insieme un'agenda di lotta nazionale. E questo attraverserà diversi passaggi. Già dal 96, dalla fine del 95 in poi, ci saranno tutta una serie di proposte a quella che è la società civile. I zapatisti per società civile intendono le organizzazioni politiche non armate, faranno delle proposte alla società civile che di volta in volta in parte riusciranno, in parte no, però creeranno presupposti per la proposta politica successiva. Cioè, sempre ogni proposta sottolinea dei deficit che poi la proposta successiva cercherà un attimino di correggere. Questo dalla Convenzione Nazionale Democratica del 95 fino alla sesta del 2012, e passando per la grande marcia del color della terra del 2001, che sarà proprio l'apice, la vetta dello zapatismo in termini di interesse internazionale, che influenzerà anche molto diversi movimenti europei, che cercheranno più volte di interpretare lo zapatismo, spesso facendolo anche in modo totalmente erroneo e fuorviante. E vabbè, te la facciamo una polemica. Passando oltre. Si arriva quindi al 2003, che è lo spartiacque dello zapatismo, in cui praticamente l'esercito zapatista decide di ritirarsi nelle montagne senza lasciare le armi, a difesa delle comunità e a difesa dell'autonomia. E rientrerà rientrerà in azione solo quando le comunità ritengano opportuno una dichiarazione di guerra. E l'autogoverno, la palla dell'autogoverno, viene lasciata in mano alle comunità stesse, ovvero alle basi d'appoggio zapatiste, i militanti di base dell'organizzazione. Quindi quel tendero zapatista è diviso in 5 zone, chiamate Aguascalientes. Aguascalientes era gestito da un comando militare, e questi Aguascalientes vengono fatti morire per volere collettivo, e al posto degli Aguascalientes nascono i Caracol, dove è direttamente la società zapatista che si autogestisce attraverso la giunta del buon governo. Quindi parlerà meglio Lorenzo. Il Caracol, nel Caracol siede la giunta del buon governo, che ha semplicemente il compito di tradurre in pratica quello che le assemblee comunitarie hanno decretato per consenso, assolutamente un potere esecutivo. Per questo fuori da ogni Caracol c'è la scritta: a chi manda il pueblo, e il governo obbedisce. Qui comanda il popolo e il governo obbedisce. La giunta del buon governo non può in alcun modo decidere niente. La giunta di buon governo in opposizione al mal governo. Al mal governo, che è quello che governa il Messico, ma anche quello che governa il mondo, chiaramente. Quindi il tempo passa, l'autonomia è in continuo divenire, non si cristallizza mai in un unico modus operandi. I zapatisti dicono sempre: tuttavia falta, manca ancora molto. È una sorta di laboratorio politico che non finisce mai di sperimentare se stesso, che non finisce mai di sbagliare, di raccontare i propri sbagli e di imparare dai propri sbagli. I zapatisti diranno sempre che sbagliano, costantemente. Si arriva poi quindi a una nuova fase dello zapatismo, in cui non ci sono più i grandi eventi con la comandanza, con le parate militari, e qui gli incontri con la società civile li farà direttamente con le basi d'appoggio delle ZLN, ovvero con i contadini e le contadine che giorno per giorno dall'altra parte del mondo costruiscono dal basso l'autonomia reale e la resistenza contro il malgoverno. E tant'è che quindi c'è sempre un ridimensionamento di quella che era la figura storica, il portavoce storico delle ZLN, quella del subcomandante Marcos, che poi lentamente viene fatto morire per volere collettivo e rinascerà poi con un ruolo più ridimensionato come subcomandante insorgente Galeano, predetto non da Galeano, compagno zapatista, che era morto, ucciso da un attacco di paramilitari mentre cercava di difendere il Caracol della legalità, mentre invece il ruolo di portavoce ufficiale della ZLN passerà direttamente al suo comandante insorgente Moisés, che prima era tenente colonnello. Però proprio in seguito all'omicidio di Galeano, quello che abbiamo notato invece è un ritorno negli incontri molto preponderante della parte militare. Cioè, non c'è più un incontro con la società civile dove i militari non si facciano vedere, dove non ci siano delle marce e dove non ci siano delle dimostrazioni di forza necessarie rispetto a un paese come il Messico, dove il presidente progressista di turno continua a costruire delle caserme nel territorio chiapaneco. E la risposta a queste nuove caserme, l'unica risposta possibile è quella di nuovi Caracol. Questa è l'ultima notizia che ci arriva dalla comunità zapatista, che è quella di quest'estate, dove c'è stato un implemento di Caracol, un implemento di Mares, che corrisponde quindi a un rafforzamento dell'organizzazione interna della società zapatista, che alla fine ci ha riportato la cifra esatta di 43 in tutto tra vecchi e nuovi Mares e Caracol, 43 quanto lo stesso numero di quelli che sono stati gli studenti scomparsi ad Esaparesidos di Ayotzinapa. Quindi anche questo è stato un messaggio molto importante che ci viene dalla Selva Lacandona. Riguardo invece alle pratiche dell'autonomia più nel dettaglio risponderà adesso Lorenzo, e poi magari ci sono domande o curiosità per discutere insieme. Grazie. Ci proviamo, perché ovviamente è un concetto gigante, non so se sono bravo come me, ho fatto proprio una panoramica dei 100 anni in 10 minuti. No. Cioè, io provo a provare a raccontare quello che abbiamo capito e abbiamo ragionato noi dell'autonomia zapatista. Innanzitutto mi verrebbe da iniziare il discorso dicendo che a noi ci vengono in mente due tipi di autonomie zapatiste. Una è quella dell'avanguardia, quindi di quelle prima 6 persone di cui parlava prima Matthew, che vengono dall'FLN, sono andate con un piglio maoista nella selva lacandona ad organizzare i contadini per prendere il potere, dittatura del proletariato, comunismo, quello era il piano, diciamo. E che a un certo punto hanno virato, hanno cambiato di paradigma, un po' anche sì, in maniera simile, se vogliamo, ai kurdi, uno shift dal marxismo-leninismo maoista a un'autonomia che è un po' da scuola, un po' de Castoriadis, quindi l'autonomia in contrapposizione con l'eteronomia, la capacità delle comunità e delle classi subalterne di riuscire a darsi le leggi da soli, quindi ad autogovernarsi e a decidere da soli qual è il proprio sviluppo, qual è il proprio progetto collettivo. Però dall'altra parte c'è un'autonomia che, se vogliamo, è culturale e è la cosmovisione indigena, che è un po' il discorso appunto che faceva prima Matteo, in cui i compagni e le compagne a un certo punto hanno iniziato a camminare domandando e a capire qual era la strada della lotta che avrebbero intrapreso da soli gli indigeni e le indigene. E questo è un tema proprio gigante, quindi la cosmovisione indigena è come tutta la cultura maya, che poi ovviamente è una cultura sfaccettata, stratificata, perché stiamo parlando di decine di etnie diverse, di lingue diverse, di modalità di organizzarsi diverse, si danno nelle loro forme sociali. Cioè, sostanzialmente gli indigeni, se vogliamo, hanno resistito da soli al capitalismo per 500 anni, perché per 500 anni, per quanto ci hanno provato con tutte le maniere possibili a colonizzarli, non ci sono ancora riusciti banalmente. E quindi c'è da capire che sostanzialmente loro culturalmente sono anticapitalisti, cioè proprio per secoli si sono negati di parlare lo spagnolo, ovviamente poi lo parlano, e di vivere come viviamo noi, anche se noi ci abbiamo provato con la religione, con le armi, con la violenza, con la televisione, col mito degli Stati Uniti, con tutto ci abbiamo provato. E loro sono rimasti in quella modalità di vivere la vita e di vivere il sociale. Che qua, cioè, provo a dare degli spunti, perché parlarne in maniera piena è veramente complesso, e poi banalmente non lo posso fare perché sono bianco, quindi provo a dare degli spunti che abbiamo provato a cogliere noi stando là. E banalmente, non so, in Sozil non c'è la parola io, c'è il noi, c'è la soggettivazione. Scusa, Sozil è una delle lingue indigene che si parla nel Chiapas, ci sono almeno 4-5. Sì, è una delle etnie maya. Non c'è la parola io, c'è la soggettivazione, è il noi. La persona si dà solo nella comunità, tant'è che hanno delle forme organizzative comunitarie che sono socialiste proprio, nel senso che ci sta l'equipe, ci sta un pezzo di terra che è il più grosso, che è collettivo, e viene lavorato collettivamente attraverso il tekio, che è il lavoro collettivo, Quindi il mezzo di produzione principale, che è la terra, è collettivo, e ovviamente i suoi frutti sono poi redistribuiti equamente all'interno della comunità. Le decisioni sono prese per consenso, tant'è che questo più nello stato di Waga è deciso per legge che nelle comunità a maggioranza indigena non ci sono le elezioni, ma vengono decisi i governatori in una modalità che è definita por usus et costumbre, quindi per usi e costumi, in cui sostanzialmente non c'è il voto, non ci sono le persone che vanno alle urne, ma c'è un'assemblea e vengono decisi appunto per consenso chi sono le varie figure governative all'interno delle comunità. E questo non è una roba zapatista, è una roba indigena, nel senso che c'è in tutte le popolazioni maya, tant'è che nello stato di Waga, dove i zapatisti non sono presenti direttamente, gli indigeni hanno imposto questa cosa. E quindi poi c'è tutto il discorso spirituale che sicuramente entra all'interno della definizione di autonomia, perché qua dico proprio uno spot perché veramente non c'ho la preparazione per tutta la tematica, però sostanzialmente c'è una... quello che viene raccontato come che c'hanno vari dei, l'acqua, il fuoco, la terra, il sole, in realtà storicamente non sono vari dei, sono sostanzialmente varie energie in cui a me me l'hanno spiegato molto terra-terra e mi avevano detto, cioè, tu credi a tu. Io no, però la società tua crede a uno che ti hanno detto che esiste, noi crediamo a delle cose che esistono, il fuoco, la terra, il vento, l'acqua, delle cose che esistono e ci danno la vita. E questa spiritualità c'entra nel concetto di autonomia, perché ovviamente vedendo la spiritualità in questa forma, ovviamente crei delle dinamiche sociali in equilibrio con l'ambiente che ti circonda sostanzialmente. E quindi ovviamente entra dentro al discorso politico complessivo dell'autonomia zapatista. E ora, detto questo, provo a dare una panoramica, ci facciamo sempre questo schemetto, di come poi sono riuscito a fare la crescita di pazzi. In cui sostanzialmente queste due autonomie, quindi l'autonomia dell'avanguardia e l'autonomia delle popolazioni indigene, si sono date nel creare una forma sociale di vita insieme e se vogliamo di non stato, nel senso che poi c'è la mappa che gira, il territorio zapatista è un territorio molto grande, che è grande più o meno se vogliamo come metà Italia. Non è coltivo, non coltivo, esatto, come la Palestina, e dove sostanzialmente il numero esatto ovviamente non c'è, perché se lo tengono stretti i compagni, delle persone interessate dal processo organizzativo zapatista comunque è intorno ai 150-200 mila persone, quindi sostanzialmente queste due autonomie si sono provate a dare, danno continuamente una forma di governo per un territorio molto vasto e per una popolazione abbastanza vasta, e si sono dati una forma di gestione dopo aver liberato i territori nel 94, sostanzialmente separando i due poteri, il potere politico-militare da una parte e il potere amministrativo dall'altra. E se vogliamo, questo, diciamo, da scienze politiche è un po' la prima volta che c'è, nel senso che in America Latina hanno fatto un sacco di rivoluzioni, però nessuno poi aveva diviso questi due poteri. Cioè Fidel Castro prima stava a capo dell'esercito rivoluzionario e poi stava a capo dello Stato. Ecco, nei zapatisti questo è vietato. Se tu hai un carico militare non puoi avere un carico amministrativo, cioè proprio i due poteri devono essere completamente separati. E questa è la formula base, prima per creare l'autonomia, che infatti noi raffiguriamo, scusate, ma non abbiamo una lavagna, una cosa, è una clessidra sostanzialmente, cioè due triangoli, uno con la punta verso il basso, uno con la punta verso l'alto. Cioè, sei impegnato comunque. E quello con la punta verso l'alto è il potere... è il potere politico-militare. Il potere politico-militare, ovviamente, ancora oggi comunque i zapatisti sono in guerra, non è una guerra come quella del 94, quindi come ce la immaginiamo noi che si sparano per strada, è una guerra che è definita a bassa intensità, quindi con lo Stato e i partiti che vanno e comprano pezzi di comunità e li mettono in conflittualità col resto della comunità. Quindi c'è storie dei cugini che vanno e bruciano il campo dell'altro cugino e stuprano la cugina. Questa è la dinamica di guerra. Scusate se non entro nei dettagli, però veramente è un discorso molto ampio. Quindi la piramide a testa in su è quella politico-militare, che ovviamente è verticale, perché le decisioni militari devono essere rapide. E infatti i vari strati della piramide sono le basi di appoggio, quindi le basi di appoggio che sono sostanzialmente tutti e tutte le zapatiste. E noi compresi? Noi compresi, vabbè, noi non proprio, noi siamo la sesta. Siamo la sesta, cioè. Ci manca lo strato. La sesta. Esatto, noi siamo la sesta, siamo ancora sotto. Per contentino. Sesto strato. E sopra ci stanno i miliziani e le miliziane, e quindi sono le basi di appoggio che hanno, vabbè, tutte le basi di appoggio hanno una formazione militare, però i miliziani sono quelli che hanno una formazione militare costante, che sono quindi sempre pronti a far parte dell'esercito insorgente. Poi ci sono gli insurgentes, che è l'esercito vero e proprio, quindi quello che costantemente, le persone che costantemente sono in armi, e poi c'è il CCRI, il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, che sostanzialmente è GOTA, anzi, il comando. Il comando. E quindi sul militare ovviamente c'è questa verticalità, le decisioni le prende il Comitato Clandestino e si ubbidisce. Però sull'amministrativo, quindi nelle decisioni della vita quotidiana, la piramide si ribalta. Nel senso che per decidere dove si fa un ospedale, dove si fa una scuola, dove si fa una strada o tutto quello che può interessare la vita insieme, c'è la stessa piramide che è girata, nel senso che il comitato clandestino rivoluzionario indigeno non conta il cazzo, sta in fondo e non ha praticamente diritto di parola, proprio per il discorso che facevamo prima, per cui il potere amministrativo è scisso da quello militare. E in questo senso nel potere amministrativo la piramide è rovesciata, quindi il potere massimo ce l'hanno le basi di appoggio e quindi tutti e tutte le zapatiste, perché ovviamente poi nell'amministrazione poi fatta proprio a schemino di come è organizzata appunto l'amministrazione, la comunità, ogni comunità, che sono se vogliamo tutti i paesi che sono zapatisti, ha il meccanismo decisionale ovviamente in assemblea, dove partecipano tutti e tutte, e la comunità sta in cima appunto alla catena di comando amministrativa. Poi ci sono i Marez, che sono se vogliamo le province, e poi ci sono le giunte di buon governo, che sono se vogliamo le regioni nostre. Quindi sostanzialmente, per capirci, è come se qua le decisioni che interessano faccio Roma, scusate perché non so i quartieri del Bologna, però è come se le decisioni, l'ambito decisionale vinci. Lo spazio decisionale principe sono le assemblee di quartiere del Tufello, di Torzignattara, eccetera. Poi lì vengono prese le decisioni che vengono coordinate nel Marez, che è nella Roma Nord, che poi vengono coordinate nella giunta di buon governo, che è Roma. Quindi, per fare un esempio pratico, dobbiamo costruire un ospedale. Le comunità, ogni comunità al suo interno, fa una riflessione su dove costruiamo questo ospedale. In base alla regione, noi sappiamo che magari abbiamo fatto i soldi per fare un ospedale che copre un pezzo di città. Le varie comunità esprimono i loro bisogni e i loro desideri su dove fare l'ospedale e sul bisogno di salute. Poi questi bisogni vengono riportati e coordinati in ultima istanza al comune. Quindi sostanzialmente ognuno dice, che ne so, a Centocelle dicono che abbiamo più bisogno del consultorio, a Artufello dicono che abbiamo più bisogno del CERT, là abbiamo più bisogno di un'altra cosa, e nella giunta di buon governo decidono come strutturare l'ospedale e dove metterlo. Però ovviamente l'assemblea di quartiere c'ha l'ultima parola, quindi questa decisione poi ritorna all'assemblea di quartiere. Quindi se alla giunta di buon governo hanno deciso di mettere l'ospedale a Trastevere, noi gli dimo no, perché quello già hanno gentrificato e stanno lì. E quindi riparte la catena di comando. Riparte la catena di comando e ritorna su e giù. Però la parola ultima ce l'hanno le comunità. E quindi in questo senso veramente si può dire il popolo comanda e il governo obbedisce, perché poi sostanzialmente è paradossale vedere come vengono scelte le persone che vanno alla giunta di buon governo. Cioè ci stanno proprio delle assemblee in cui fanno, a me no, ragazzi, cioè io ho piantato tutta la piantagione di mais, io a far governatore della regione non ci vado proprio. Questa è l'assemblea per decidere la giunta di buon governo. A me mi sono andati due gemelli, io non è che vada a fare l'assessore, regà. Questa è veramente l'assemblea in cui decidono chi va a fare l'assessore, chi va a fare il governatore della regione, perché poi paradossalmente, posta in questa maniera, il governo è l'accollo, cioè è una responsabilità gigante, te ne devi andare dalla tua famiglia, dai tuoi affetti per un periodo anche lungo. E scusate, c'è certi compagni nostri che sono lì che fanno tutto. L'abbiamo detto un istante prima, il governo è l'accollo. E quindi sostanzialmente il potere viene destrutturato in questa forma, dando all'amministrazione quello che è la sua vera essenza, cioè avere la responsabilità della vita insieme, che quindi è una responsabilità gigante, è una responsabilità che deve portare tutti e tutte noi a vivere bene e ad essere felici. In questo senso, vabbè, l'accollo è pure una punizione. È pure una punizione. Se abbiamo organizzato una festa, Chiara ha fatto casino alla festa, la prossima la organizza lei. È vista così in base, cioè, se si è comportato male, per punizione vai a fare il governo autonomo, vai a governare, perché nessuno dentro la giunta del buon governo percepisce il salario. Sono le comunità di base che ti garantiscono il minimo per la tua esistenza, per mangiare, per bere, per dormire, punto. E te resti 3 anni in carica così. Poi c'è un'altra giunta, la turnazione delle comunità di base, però tu non percepisci nessuno stipendio, nessuno all'interno della società zapanista percepisce un salario, zero, non esiste questa cosa. Però ti vanno a zappare il campo i compagni, vanno a zappare il campo, capito? Cioè governare è un accollo, molto spesso è una punizione che viene fatta. Te ti sei comportato male, non hai militato bene, il tuo impegno politico è stato carente, i prossimi 3 anni di giunta di buon governo ci vai pure tu. È una minaccia. Il governo non si percepisce salario, quindi non c'è nemmeno la possibilità di una corruzione di governante, questa è una cosa grandiosa. Non è insomma come Merola. No, quindi sostanzialmente quello che voglio dire, poi invece sulla gestione dei servizi, se vogliamo, qui anche è molto complesso, nel senso che ovviamente c'è l'autonomia e ci stanno varie etnie diverse, quindi sostanzialmente la scuola, la giustizia, la salute si calibra anche in base alle varie differenze tra le etnie, perché poi ognuno decide per sé le varie forme. Ora provo a entrare proprio rapidamente nel dettaglio delle varie cose, perché penso che siano abbastanza interessanti. E questo, iniziamo tipo dalla giustizia. La giustizia, allora, poi su questo ci sono veramente pochi dati, perché poi i compagni non sono molto resti ovviamente a dire esattamente come funziona al proprio interno, sempre per il discorso per cui sei in guerra. Per quanto riguarda la giustizia, il principio base, che ovviamente nasce dalla cosmovisione indigena, nel senso loro comunque se la sarebbero gestita così, la giustizia parte dal principio che non parte come la nostra giustizia dal principio della punizione, quindi è sbagliato ti punisco, parte dal principio della riparazione del danno. Quindi è sbagliato ripari il danno, non è che ti metto in carcere, ma ripari il danno. E ci sono dei carceri nelle comunità che sono molto particolari, perché sono aperti, non c'è la serratura, però è carcere, c'è la gabbia, c'è scomodo, però sostanzialmente i detenuti tornano in cella da soli. E la punizione sta nel fatto che in qualche forma decisa, ovviamente in maniera comunitaria, ovviamente c'è una commissione scelta dalla comunità che si occupa, diciamo, di fare la giuria e di decide le pene, e questa giuria appunto decide qual è la formula in cui tu dovrai riparare il danno che hai causato, e nel periodo in cui tu ripari il danno, per autocoscientizzarti di quella cosa e per far vedere che lo stai riparando, lo puoi riparare, vai a dormire in carcere sostanzialmente, quindi di giorno ripari il danno e di notte torni, poi non è in carcere, cioè poi è una casa, insomma, una stanza, perché poi se non è chiuso non è carcere ovviamente. E questo ovviamente però è figlio della visione comunitaria della vita, perché nessuno si rifiuterebbe di riparare quel danno, perché rifiutarsi vorrebbe dire fuggire dalla dimensione comunitaria, cioè tu sei una merda se non lo fai, e sei una merda da tutti quelli a cui vuoi bene, e quindi sei anche tu in prima battuta che dici ho fatto una cazzata, capiamo insieme come riparare quel danno. E sul resto anche è molto simile, nel senso sulla scuola anche la formazione è tutta legata a questa visione della vita, che appunto faceva fede a quello che dicevamo all'inizio, per cui la persona si soggettivizza all'interno della sua collettività, e quindi la crescita del bambino è messa in condivisione con tutta la comunità, e in particolare delle figure all'interno della comunità si specializzano relativamente, nel senso che è molto desprofessionalizzata la scuola nella formazione, nel passaggio di conoscenze sia pratiche, lavorative, sia teoriche. L'altro campo ovviamente importantissimo della vita zavalista è la salute, E c'è da dire che su questo, insieme forse ai curdi solo, hanno fatto un po' di più, è una vera e propria sanità autonoma, quindi senza Stato, finanziata da tutte le comunità, che ha raggiunto dei livelli che non sono come i nostri, però hanno dei servizi abbastanza avanzati, hanno la radiografia, hanno l'ecografia, hanno le analisi di laboratorio, hanno camere operatorie fatte a modo in ogni giunta di buon governo, hanno un sistema di 113 con le ambulanze che ti portano direttamente in questi posti. Poi ovviamente cioè, manca tanto, non c'hanno la TAC, non c'hanno la risonanza magnetica, non c'hanno la scintigrafia, però c'è un vero e proprio sistema sanitario, cioè da definire sistema sanitario, non una commissione salute. E su questo anche noi compagni italiani abbiamo dato un po' una mano nell'arco del tempo. Comunque due ambulanze sono state regalate da varie carovane che ci sono state nell'arco del tempo, fatte da compagni e compagne italiani. E poi la salute, così come la scuola, ha delle figure che sono interne alla comunità, che sono i cosiddetti promotores, quindi promotores di salute, promotores di educazione. E questo è molto importante, perché è un po' il concetto, non so se avete... poi voglio fare teorico, che ho studiato queste cose, non l'ho studiato, però è indice, è noi tutte queste categorie sociali non le deleghiamo a un'elite come qua, la medicina è data a una cricca di medici che parlano una lingua tutta loro, che è fatta pure apposta affinché tu non capisci niente, così come la scuola, anche se un po' meno. Là ci sono dei promotores che sono interni alla, non so come dire, la conoscenza peer-to-peer, esatto, la conoscenza si prova a diffondere il più possibile all'interno della società. Quindi non c'è solo il medico, c'è anche in ogni agglomerato sociale c'è un promotore de salute, e quindi una persona che ha una preparazione sulla salute, che ovviamente però è una preparazione diversa da come ce la immaginiamo noi, nel senso che non è che viene formato sulle medicine da dare, ma viene più formato sulla prevenzione e sul primo soccorso e buone pratiche. E poi c'è tutto questo sforzo enorme, bellissimo, che meriterebbe un capitolo a parte, che è il tentativo di integrare la salute ancestrale con quella moderna. E questo sforzo è in tutti gli ambiti della società, anche nell'educazione e in tutti gli ambiti della società, per questo sforzo di unire la tradizione maya all'oggi. E sulla salute, e qui provo a chiudere, se no attacco niente le mine, sulla salute c'è questo sforzo a unire la medicina allopata occidentale alla medicina ancestrale, che è fatta sostanzialmente di fitoterapia, poi alla fine, e quindi di erbe. E quindi i promotori di salute hanno una formazione fitoterapica, una formazione preventiva, però perché il ragionamento poi alla base qual è? Che se sei tu a costruire insieme un sistema sanitario, ti concentri su quelle cose che la medicina occidentale non ci si concentra, perché fa meno profitto, perché ovviamente sulla prevenzione fai meno soldi che vendendo loghi, sulle piante fai meno soldi che vendendo la tachipirina, perché la tachipirina la faccio io casa farmaceutica, la pianta te la fai anche da solo. Quindi sostanzialmente, ovviamente, poi il discorso principe nella costruzione di ogni servizio sanitario è il fatto che con questo meccanismo di amministrazione tu sei riuscito sostanzialmente a scindere qualsiasi servizio collettivo dal meccanismo del profitto. Quindi la riflessione che c'è dietro non è facciamo funzionare quel servizio e quindi per farlo funzionare deve fare soldi perché così funziona meglio. Il ragionamento è un altro, e su questo chiudo su questo concetto di produttività. L'amministrazione autonoma a volte, se uno ci si scontra per proporre delle cose o per fare delle cose insieme, sembra quasi che non funziona, cioè, perché è molto lenta da una parte, perché ovviamente deve garantire la democraticità del processo, quindi quella cosa che ritorna alla decisione che dicevamo prima, e è molto lenta pure perché, e su questo Zapatista ha fatto una bellissima riflessione, il proletariato, le classi subalterne non hanno mai governato e banalmente non sanno governare, e il processo che porta all'autogoverno è un processo lungo fatto di apprendimento, perché i poveri non hanno mai comandato. E negli altri posti, nelle rivoluzioni, quelle marxiste-leniniste, quello che hanno fatto è sostanzialmente creare un'altra classe di governo, che magari non è la borghesia, è il partito, però è sempre una classe che governa, mentre in questa forma, in questa formula di governo, l'autogoverno, sostanzialmente dobbiamo imparare come governarci, e questo è un processo lungo, faticoso, molto più difficile che delegare la decisione a un gruppo di persone ben determinato. Basta. Sulle cose, tornando alla giunta del buon governo, la cosa molto importante su cui poneva il focus Lorenzo è la questione della deprofessionalizzazione della politica. E la giunta del buon governo è fatta in modo che alla base c'è il concetto molto importante della turnazione, cioè, ovvero i membri della giunta del buon governo di ogni caracolla vengono scelti dalle assemblee comunitarie a turnazione. E di volta la giunta resta in carica per 3 anni e i suoi membri ne scelgono una ventina che restano in carica per questi 20 anni, per questi 3 anni. Questa ventina di persone però di volta in volta non partecipa alla giunta del buon governo, ne partecipano giusto 6-7 tendenzialmente, e sono totalmente intercambiabili e di settimana in settimana mutano costantemente. Ora c'eravamo io, Lorenzo e Titti, per farvi un esempio, per un mese la giunta del buon governo è formata da me e Titti, e il mese successivo da me e Lorenzo, il mese successivo da Lorenzo e Titti, e poi da me e Lorenzo. Questa cosa, diciamo, pone un freno a possibili tentativi di corruzione. E un altro freno è il fatto che c'è una giunta, per esempio, di vigilanza, una commissione di vigilanza che vigila costantemente sulla conduzione della cosa pubblica da parte della giunta del buon governo, soprattutto sulla questione economica, sull'amministrazione delle finanze che la giunta del buon governo si trova a gestire. Se la giunta del buon governo non fa il suo lavoro, le comunità di base possono sollevarla dal proprio incarico, annullarla e eleggerne una nuova. Di base la grandezza dell'autogoverno zapatista risiede proprio in questo. E ogni militante di base, almeno una volta nella vita, dovrà avere un incarico di governo, dovrà avere un incarico in termini di autorità. Questo proprio è la base della deprofessionalizzazione della politica, delle ZLN. Ogni militante di base, anche qualora tu non ti senti in grado, ci sono i militanti più esperti che comunque ti accompagnano in questo processo fino a farti avere tutti gli strumenti necessari ad affrontare questo compito. Questa francamente è una cosa comunque grandiosa che le ZLN porta avanti. Beh, mi sono persa l'ultimo intervento, ma sono sicura che è una cosa interessantissima, Matteo, come sempre. Va bene, ringraziamo Matteo Lorenzo della Pirata, anzi del nostro solidario di Roma, per questo spiegone fantastico e super sentito. Anche i ragazzi vanno praticamente ogni anno in Messico e quindi hanno contatti diretti, io penso che si sentano i loro racconti. Va bene, domande? Questions? Venire. O poi fai la rigida. Io ero curioso di capire come avveniva la comunicazione, il coordinamento tra le due triangoli, cioè tra il potere, quello politico-militare e quello amministrativo, cioè come interagiscono sia praticamente sia nel, in qual è la consuetudine con cui le priorità vengono definite e poi applicate. Allora, la comunicazione avviene attraverso delle figure, dei responsabili di zona, potremmo anche chiamare commissari, anche magari il termine non ci piace, ma così, che si occupano di fare da tramite tra, cioè, un responsabile politico che si occupa di fare da tramite tra la SECRI, comitato clandestino rivoluzionario indigeno, e la giunta di buon governo, e un'altra figura responsabile che poi si occupa di riportare le decisioni della giunta del buon governo alle comunità di base, e qualora queste decisioni per le comunità di base non andassero bene, di riportare poi la decisione delle comunità di base alla giunta del buon governo per poi fargli elaborare una nuova proposta. Cioè tutta una serie di figure, di responsabili di zona, di Mares, di municipio autonomo di Belle, di comunità, che si occupano poi di portare le informazioni. Ok, cioè, a parte la comunicazione di questo aspetto, l'apertura di nuovi caracoli, immagino che sia stata una decisione che ha coinvolto tutta la base. Assolutamente. E che avrà coinvolto anche una valutazione politica e militare sull'azione in territorio. Sì. Quindi immagino che sia stato un confronto lungo, non... E che abbia visto partecipare entrambi i triangoli. Probabilmente sì, ha visto partecipare tutti entrambi i triangoli. È stata una decisione che non sappiamo quando è iniziata, ma sicuramente sarà stato un processo assembleare lunghissimo che ha coinvolto tutte le comunità di base, anzi di base è partita dalle comunità di base questa decisione. Perché ovviamente la comunità, perché le zone sono enormi e sotto il controllo delle ZLN, quindi probabilmente era molto complicato per la comunità X sperduta nella selva La Candona farsi carico di 10 ore di cammino per arrivare al caracol della realtà. Era molto complicato, si faceva, ma era complicato. Quindi è nata questa riflessione che poi ha portato alla nascita di un nuovo caracol, magari intermedio, in cui quella comunità potesse fare magari 4-5 ore di cammino per arrivare a questo caracol, al nuovo caracol, quindi per semplificare ancora di più i processi decisionali. Quindi questa è un'esigenza che è nata dalle comunità di base, quindi che poi ha coinvolto tutti gli altri livelli di governo della società zapatista, ha coinvolto la SECRI, il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, e quindi attraverso questo chiasmo, chiamiamolo così se vogliamo, esecutivo e decisionale, si è arrivati a questa proposta che poi è stata resa pubblica tendenzialmente giusto quest'estate, però ha coinvolto tutti gli ambiti decisionali della società zapatista. Sono tempi lunghissimi, però il senso dello zapatismo è questo, è il motto stesso dello zapatismo: l'espacio però avanza, lento però avanza. E in fondo il caracolla è la lumaca, il simbolo della lotta zapatista è la chiocciola, è la lumaca, è proprio la lentezza, è l'epifenomeno dello zapatismo. Se ho capito, non solo per aggiungere una cosa, perché ovviamente dicevo potere politico militare, quindi sembra giustamente che poi ovviamente ogni scelta anche amministrativa è anche politica, quindi potrebbe sembrare. Infatti non capisco perché metti il potere politico. Esatto, lo metto perché poi avevo messo politico perché alcune decisioni, tipo ad esempio ci sta il gasolinazzo, quindi c'è stato un anno e mezzo fa un aumento della benzina che ha portato a una mobilitazione in tutto il Messico, anche violenta in varie città, e i zapatisti in qualche forma hanno partecipato a questa mobilitazione con manifestazioni anche molto grandi. Ecco, quella manifestazione l'ha scelta il comitato probabilmente, perché ovviamente lo devi fare in due giorni, cioè parte il movimento, dobbiamo fare settimana prossima un corteo, e il comitato prende la decisione e dice andiamo a fare il corteo in città, e quindi in quel senso politico-militare. Poi ovviamente i meccanismi interni precisi ovviamente non li sappiamo, perché poi sono interni, e appunto per la situazione di guerra in cui stanno è abbastanza chiuso. Però ecco, quello da questo punto è perché un po' mi sono puntati a quello, se ho capito. Un altro esempio che posso fare è, ad esempio, quando ci siamo stati c'era uno sciopero dei maestri, e che c'è comunque in mezzo c'è il sindacato dei maestri, che penso sia uno dei sindacati più grandi dell'America Latina come iscritti, che è un sindacato rasente, autonomo, conflittuale, è una realtà molto interessante, che ad esempio a San Cristobal 2 anni fa occuparono per 50 giorni l'autostrada, e in quel momento i zapatisti hanno deciso di un'azione di solidarietà importante, hanno portato una cosa tipo 5 camion di cibo e beni di prima necessità, perché questi qui stavano a scioperare, non prendevano lo stipendio, e per 50 giorni hanno vissuto in autostrada, e loro gli hanno mandato 5 camion di beni. Eppure quella decisione è stata una decisione verticale, perché è una cosa che devi fare in 3 giorni, e quindi la manifestazione di solidarietà anche lì è stata verticalizzata. Credo che ha molto a che vedere col discorso appunto della vita quotidiana, no? Cioè la loro autonomia, quello che richiedono è quello, potersi autogestire nel vivere, per cui le decisioni che hanno a che vedere con la gestione della salute, dell'educazione, delle kiddos, e quindi della gestione collettiva delle terre, sono quelle che riguardano appunto la comunità. Le cose, diciamo, di politica estera, chiamiamolo così, o che magari presuppongono appunto decisioni più veloci, vengono prese dall'esercito, come se in un certo qual senso non volessero proprio occuparsi di ste robe, perché appunto nell'esercito chi sta, e prima magari non hai detto questa distinzione, cioè ci sono delle persone come dei riservisti, quindi delle comunità pronti eventualmente a prendere le armi, ma che continuano la vita civile, c'è invece chi fa proprio la scelta, diciamo, militare, quindi vive come nella guerriglia tutt'oggi, no? Nella selva, nascosti, in basi che comunque oramai sono meno nascosti che nel 95-96, per cui penso che ci sia più questo tipo di distinguo, no? Cioè proprio sul piano anche della loro scelta di autonomia, cioè vogliono essere autonomi, le decisioni della loro vita sono dal basso, le decisioni invece appunto più imposte da quello che sono le dinamiche del potere, da cui loro vorrebbero essere scelti ma a volte gli toccano, sono prese magari appunto da questa forma un po' più gerarchica. Sì, infatti in base al di là della questione militare o delle emergenze di cui parlava Lorenzo, poi nel campo del civile il compito della SEICRI, il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, è semplicemente quello di dare degli input, dare dei consigli per correggere un minimo l'andamento dell'autonomia o le decisioni della giunta del buon governo qualora andassero un minimo al di fuori dello steccato. Per esempio, a un certo punto si era creata una problematica all'interno di un caracol, di una comunità, in cui a un certo punto si era deciso che un collettivo di ganaderi, di allevatori, comunque percepisse un salario, e lì la giunta del buon governo è intervenuta e ha detto no compagne, no compagni, all'interno della nostra società zapatista non si percepisce salario, vi invitiamo a trovare un'altra modalità per sopperire a questo problema. Però non è che la soluzione è venuta dalla SEICRI, la SEICRI è solo questo compito di dare degli input e di indirizzare da fuori un po' meglio il lavoro dell'autogoverno indigeno. Fai. In soldoni è chiaro che magari esce la stessa dichiarazione della Selva La Candona, è chiaro che l'ha scritta la comandanza, se diamo per culo. Però prima che venga resa pubblica è stata approvata da tutte le comunità di base, è stata letta e approvata da tutte le comunità di base, altrimenti non sarebbe riuscita. Sì, io volevo chiedere, sulla base della vostra conoscenza, della vostra esperienza, qual è il ruolo, l'impatto che hanno avuto i movimenti internazionali che dal 94 hanno iniziato a sostenere la causa antifascista sul processo di ricostruzione dell'autonomia, sia in termini di, possiamo dire, di mobilitazione delle risorse, sia umane che anche economiche, quindi sostegno economico, sia in termini di influenza culturale, che spesso può prendere la forma di un etnocentrismo, di una imposizione dei valori occidentali. Prima forse sono arrivato tardi, quindi non ho sentito se avete parlato prima, su quelli che sono i valori indigeni. E quindi, anche se è stato un discorso di tutti, però potete chiarire un attimo questo senso. Ah, grazie, perché tra l'altro prima ci dicevamo volevamo fare un po' di pettegolezzo sul ruolo soprattutto di disobbedienti dell'Homo Strancos, perché sono stati tra i primi a andare in Chiapas e sono ancora nella disobbedienti, hanno accompagnato Marcos e non solo, come erano già disobbedienti, okay. E, tra l'altro anche l'Inter e il presidente Massimo Moratti sono tra i sostenitori dello zapatismo, pochi lo sanno, mi piace dirlo perché è veramente una cosa che lascia perplessi. E quindi l'Inter AC, calcio Milano, ha finanziato molto gli zapatisti. La Pirata finanzia gli zapatisti, anche XM24 e oggi l'Insani, adesso Termasani, o come la vogliamo chiamare. Quindi ci dà anche la possibilità di, come dire, fare il link sulla sagra del peperoncino, che è un po', diciamo, il format, anche se è una parola orribile, che la Pirata ormai da 7 anni, diciamo, utilizza per raccogliere un po' di soldini, di fondi da appunto mandare in Messico a sostegno non solo in realtà degli zapatisti, ma anche di altre realtà, come per chi c'era prima, quella della Finca Alemania, però appunto in parte degli zapatisti. Allora, c'è da dire che la solidarietà internazionale dal 94 in poi ha svolto un ruolo importantissimo e anche è stata la forza degli zapatisti, cioè la loro capacità comunicativa e evocativa che ha determinato una risposta di mobilitazione di massa non solo in Messico ma in tutto il mondo, ha protetto la guerra, i famosi 12 giorni di guerra, perché poi ovviamente per quanto la capacità di guerriglia sia abbastanza buona, una guerra in campo aperto con lo Stato messicano è veramente impari, e la forza che ha dato con le armi americane è veramente impari, e la forza che ha dato la solidarietà che loro sono riusciti a evocare anche grazie a una capacità comunicativa fuori dal normale, nel senso che, cioè, i comunicati di guerra, ce ne abbiamo un po' al banchetto, erano fiabe, favole, nel senso che al terzo giorno di guerra esce la favola di Don Durito, e quindi la narrazione delle decisioni che vengono prese in guerra è stata data attraverso una formula comunicativa che è una favola, che è assurdo, che però questa capacità comunicativa, che torna sempre anche dalla capacità di narrazione indigena, perché la modalità comunicativa indigena è veramente completamente diversa dalla nostra, è fatta di immagini, è fatta di emotività, non è fatta di descrizione analitica come è quella nostra, e loro comunicano proprio così fra di loro, e sono stati in grado di portare questa capacità comunicativa nella comunicazione politica, e questo ha fatto scaturire una solidarietà fuori dal normale che gli ha dato una forza incredibile. D'altro canto c'è una riflessione importantissima, secondo me, che c'è anche utile a noi per ragionare insieme sulle nostre pratiche quotidiane, perché è veramente una pratica decolonizzante, nel senso che i zapatisti non accettano l'aiuto dall'esterno sostanzialmente. Non è che l'ONG va e gli dice ti costruisco un ospedale, loro gli dicono no, non fa niente, perché non è che tu arrivi e dici ti costruisco un ospedale là, no, semmai se mi vuoi dare una mano io ti dico io voglio un ospedale là e lo voglio in questa forma, mi vuoi dare una mano? Sì, no. E questo è importantissimo perché le ONG, il buonismo diciamo, in realtà è un'arma del colonialismo, è un'arma che divide le comunità, perché banalmente da una parte ti togli delle capacità organizzative, perché se le comunità i problemi gliele risolvono, gliela risolve l'ONG che viene da fuori, la comunità non si sa risolvere il problema. Se il sistema fognario glielo costruiamo noi belli e bravi che arriviamo con un pacco di soldi, bravi, gli hai fatto un favore, e poi il sistema fognario si rompe e non sanno che fare. E gli zapatisti hanno rotto questo meccanismo, e infatti, come dicevo prima, c'è una burocrazia in questo, e noi su questo lo sappiamo abbastanza bene, perché poi con la pirata abbiamo una serie di esperimenti, di pratiche dirette, che è iniziato con il progetto Pane e Rose, in cui andavamo nelle comunità a fare i forni e a fare corsi di panificazione, soprattutto al compagno di Vella che è un panettiere, è un pizzettaro, e tu sostanzialmente vai là e metti a disposizione le tue capacità, i compagni recepiscono la tua disponibilità e ti dicono va bene, ci serve, lo fai così, così e così, lo fai là. E questo meccanismo secondo me è un concetto molto molto importante, che ci aiuta anche a noi quotidianamente qua, anche nella relazione con comunità migranti ad esempio, o con comunità diverse, perché c'è un'autodeterminazione dell'aiuto. Questo già abbiamo anche un libricino molto importante, sembra che sto a fare pubblicità, ma ragazzi noi facciamo tutta offerta libera, non è che ci fanno i soldi per il nostro papà. Ci fanno neanche tostare. Esatto. C'è il banchetto della pirata. In cattedrale. Che è un po' il concetto di aiutare chi non vogliamo il vostro aiuto, semmai vogliamo una condivisione con i compagni e le compagne di tutto il mondo. E questo però te lo impongono proprio. Anche l'Inter che veniva citata, in realtà io vorrei fare un piccolo applauso a Javier Zanetti, che in realtà gli ha dato un pacco di soldi ai compagni, finché giocava gli dava, si dice, 1 milione d'euro l'anno, e poi che è diventato dirigente dell'Inter, pure una cosa molto strana, che vai nelle comunità zapatiste e ci stanno i bambini con le magliette originali dell'Inter, i compagni che ti dicono pure orgogliosamente, dicono guarda, i partidisti, che sono quelli che invece non sono zapatisti ma si sono fatti comprare dai partiti ufficiali, e i compagni dicono i partidisti mica ce l'hanno la maglietta originale dell'Inter, perché l'Inter fa la scuola calcio tutti gli anni, quasi dall'inizio, però sempre in questo meccanismo, nel senso attraverso una serie di figure hanno dimostrato di interesse a fare questo tipo di progetti, e i compagni hanno detto bella la paura, però lo fai così, così e così, tant'è che le ONG più famose nel mondo non ci fanno niente con i zapatisti, le hanno cacciate, perché ovviamente, e su questo secondo me è un campo di riflessione importante, come l'aiuto umanitario sia una pratica coloniale. Esatto. E questo con un percorso autonomo è stato rotto completamente, e quindi quel rischio che dicevi tu, che ovviamente c'è ogni volta che tu provi a entrare nella comunità, l'hanno spezzato in questa forma, e tant'è che sono anche molto molto rigidi. Ad esempio ora, quando hanno lanciato i vari i vari nuovi Marez che ci stanno nella mappa che girava e le nuove giunte, in realtà l'hanno lanciato in un momento difficile perché c'è AMLO, quindi c'è questo governo di centrosinistra che ha la narrazione che vuole fare il bene delle popolazioni indigene, e quindi c'è un consenso popolare molto forte che però sta portando avanti un attacco estrattivista importantissimo nelle comunità. Nel territorio zapatista vogliono costruire questo tren Maya, questo treno ad alta velocità che connette Cancun, quindi la parte più turistica, con il Chiapas, che ovviamente vorrebbe dire una distruzione mostruosa sia di un tessuto sociale e commerciale, sia di territori veri e propri, perché sbraghi le montagne per fare il treno. E di fronte a questo attacco loro hanno lanciato le giunte, però si sono chiuse, e tutti questi progetti che dicevamo prima, anche i nostri, li hanno bloccati. Ora in questo momento sono bloccati perché loro comunque, se arrivano in dei momenti critici della loro storia, non hanno problemi a cacciare tutti quelli che li aiutano, perché se decidono che in quel momento c'è bisogno di una ristrutturazione interna, non vogliono influenze esterne, e questo secondo me poi risponde bene a quel rischio che dicevi: non vi vogliamo in questo momento, basta. Anche se tu dici boh, vabbè, te sto dando una mano, no, in questo momento no. E sembra di più o meno che ho provato, non so se puoi tentare. Ah no, il gossip. I compagni, comunque, c'è da dire, con le carovane, quelle che dicevamo prima, lanciate da disobbedienti, da tutta la parte di solidarietà anche italiana, in realtà c'è da dire che sono stati comunque aiuti importanti, come dicevamo prima, le ambulanze sono state comprate da queste campagne, sono state comprate dal commercio di caffè zapatista, sono state comprate da quel movimento non global che ha portato anche le loro merci fuori, che ovviamente hanno determinato un introito molto importante nell'organizzazione. E ovviamente con tutta una serie di danni, uno in particolare, il comunicato filtro, tornati da una carovana, senza far nomi, è uscito un comunicato finto firmato sul comandante Marcos che appoggiava un determinato sciopero in Italia, un determinato candidato e completamente finto, uscito sui giornali in Italia, che quando è stato scoperto da zapatisti. Però qui, anche qui, c'è da sottolineare questa capacità di dire, cioè di non essere succube alle pratiche di aiuto. Hanno detto i compagni: per 2 anni nessun italiano nelle nostre comunità, basta, cioè se state così che torni e te fai e le telefonite, stiamo bene da soli. E poi per fortuna è finito, e ci stanno anche tante altre pratiche di solidarietà che sono importantissime, perché poi c'è la solidarietà superando i rischi che dicevamo prima dell'aiuto umanitario, cioè la solidarietà comunque è la tenerezza dei popoli, nel senso una pratica che stiamo facendo anche oggi con la sagra del peperoncino, con le sagre, comunque i soldi li diamo ai compagni, non solo ai zapatisti, anche appunto alla Finca Alemania, anche a Brigata Cayena, anche a tutta un'altra serie di realtà di lotta in Messico. E quindi è sempre ovviamente ben accetta, è sempre una pratica che dobbiamo saper riprodurre, perché ci dà appunto gli spunti per scambiare, come in questo momento, riflessioni da una parte e dall'altra del mondo, da una parte e dall'altra degli oppressi nel mondo. Allora, se c'è ultime domande, sono 9:30, Marina. Ecco. Intanto io volevo ringraziare perché penso che oggi avete toccato alcuni dei punti che forse da tempo sono nodali e che è bello ascoltare, insomma, da come secondo di qualcuno che vive dall'altro lato del mondo, ma forse si scontra con i problemi che viviamo ogni giorno e che ha trovato delle soluzioni che giustamente vanno mutando nel tempo, proprio perché forse anche alcuni del, a volte il terrore di chi cerca di impegnarsi dal basso nelle cose è proprio il terrore della normalizzazione, di una strutturazione che poi in realtà ti ingabbia e ti riblocca, e quindi c'è a volte anche questa preoccupazione giusta, legittima, perché tante volte è successo, e allo stesso tempo invece è interessante capire come delle forme anche quando parlate delle ONG, io penso dall'altro lato a chi fa politica, no? Facendo l'amico politico della situazione, invece ci sono certi momenti in cui non hai bisogno dell'appoggio politico della situazione perché non è quello che cerchi, perché stai facendo un'altra cosa, e però devi trovare il modo per spiegarti e spiegare perché non è quello il momento e perché c'è bisogno di un capirsi che va a creare una nuova strada che non si sa qual è, però è una strada che si fa insieme. E allo stesso tempo il fatto della l'orizzontalità, che è una dei grandi orizzonti, e a volte anche un casino, perché è un casino a volte gestirla, e perché a volte ci rendiamo conto che anche nell'orizzontalità si finisce per questioni pratiche a dover in realtà delegare, ma senza riuscire a farlo, come dire, in maniera limpida, perché non riesci ancora a farlo, perché non vuoi uscire da quella sicurezza che ti sei creato in qualche modo, perché è l'unica sicurezza che ti protegge anche da tante altre cose che ci sono fuori. Sono tante riflessioni che in qualche modo sono balenate, no? Nella testa, ascoltandomi, che sono le cose che un po' ci balenano nella testa da tanto tempo, e per me sono molto, molto, molto interessanti, molto importanti queste questioni, e anche per me la domanda è anche un po', voi che avete avuto più modo anche di rapportarvi con certe situazioni, quanto il riuscire a creare anche una delega, anche uscendo dall'orizzontalità, anche creando in qualche modo una gerarchia che però ha delle in qualche modo delle sue garanzie, che quindi ti toglie da quelle paure, no? No, da quel meccanismo che stai rifiutando, però allo stesso tempo ne stai creando un alternativo che ti garantisce di non calare in quello, anche grazie al fatto che in qualche modo si è consapevoli di un tentativo di fluidità, tentativo di rimessa in discussione delle cose che man mano sono gli errori, che man mano sono le cose buone e le cose cattive, no? Che vengono fuori, perché è normale che sia così in un percorso. E quindi è una domanda un po' incasinata, perché nella mia testa è incasinata, però ecco, come riflessione forse per tutti noi che in qualche modo in questo momento, no, ci ritroviamo a cercare di un percorso altro, ma con delle piccole certezze, ma con il tentativo anche di andare fuori da quelle, e del calarsi anche delle situazioni, del confronto con banalmente la risposta a quello che è la, faccio l'esempio nostro in questo momento, no? La risposta al giornale, la risposta al politico di turno che ti dice tot, allora devi rispondere, c'è sempre un gruppo che deve fermarsi a rispondere, cioè, ecco, tutte queste cose forse in questo momento, anche da una realtà che forse nasce da più comunitaria, mentre noi nasciamo in qualche modo da una situazione forse più complicata da questo punto di vista, forse quali sono gli strumenti che ci lasciano questo tipo di progettualità, che non è detto che deve essere ripetuta ugualmente perché siamo in un'altra situazione, in un altro momento, però forse ci sono dei nodi che in qualche modo questa esperienza ci lascia, e che possono essere degli spunti di riflessione forse per noi oggi, per i processi che man mano ognuno nella sua realtà vuole portare avanti, e che in qualche modo possono essere degli spunti di riflessione per quello che è ognuno nel suo luogo, nel suo posto andrà a fare, e questo mi interessa particolarmente voi che l'avete vissuto. E di base quello che in parte ripeto, gli zapatisti sono riusciti a fare, come in parte anche i curdi, è un po' quello di riuscire a sciogliere quelli che sono stati i nodi insoluti delle grandi rivoluzioni del passato, rispetto magari soprattutto alla dicotomia orizzontalità verticalità. E quello che un po' noi ci siamo sempre detti è che le ZLR è una struttura che non è né orizzontale né verticale. In un certo senso siamo sempre detti che le ZLR è una struttura diagonale, e non ci hanno mai invitato ovviamente ad emularli, perché loro ci hanno sempre detto non venite qui a cercare una ricetta già pronta sul che fare, bensì siete voi, in base al vostro contesto, in base ai vostri calendari e alle vostre geografie, che dovete trovare la vostra soluzione. Noi quello che possiamo darvi quando venite qua è semplicemente una suggestione, che per noi è quella buona chiaramente, però di un altro modo di fare politica, e questa suggestione, questa spinta che ci viene dall'altra parte del mondo, dove dal basso giorno per giorno si costruisce questo mondo che cerca di tenere dentro tutti i mondi possibili, è quella dell'organizzazione, ovvero di organizzarci a seconda del nostro calendario, della nostra geografia, della fase che viviamo, trovare tutti quanti insieme il modo per organizzarci nella maniera per noi più convincente per far fronte alla domanda che sta arrivando. Di questo io non ti riesco a dire sinceramente, però comunque la spinta che ci viene da là è quella di organizzarci, e di organizzarci ancora di più, perché se vale lì vale anche qua, toda via fatta, manca ancora molto, però dobbiamo farlo insieme. Una cosa sui principi, e poi oggi va detto male che siamo capitati io e me, più maschi, però ovviamente uno fondante su cui abbiamo parlato un po' poco, appunto. E, però è la lotta delle compagne, che comunque nel mondo indigeno è una cosa comunque abbastanza strana, no? Che il fatto, non so di dove, c'è già stata la prima assemblea, riunione intergalattica, se vogliamo, delle compagne, che comunque sono state 5-6 mila donne che si sono riunite nel Caracol di Oventic, e ora a dicembre ci sta la seconda Morelia. E dall'inizio dell'insurrezione le compagne ci sono state varie comandanti che sono state cruciali nella lotta. E dico questo perché nelle varie, appunto, superamenti degli errori classici delle rivoluzioni, del marxismo, c'è stato fin da subito un elemento importante, fondamentale, che è l'elemento femminista, che ha portato in parte, cioè da dire, non del tutto, ad esempio, a rompere la dinamica del caudillismo, che in Sud America comunque è importante, è una dinamica che c'è fortissima, nel senso, se guardiamo tutte le mobilitazioni sociali nell'arco del tempo, hanno tutto un nome e un cognome, c'è Fidel Castro, c'è Chavez, c'è Morales. I zapatisti in parte ce l'hanno avuto con un nome finto e un passamontagna, e poi però sono anche stati bravi ad ucciderlo e a fare. Ora c'è il subcomandante, è Moisés, non è un comandante, è un subcomandante, e questa ovviamente è una riflessione di imposizione che hanno portato le compagne, e su questo poi tutto un altro capitolo che, appunto, però va detto male, ci stavo in due. Quindi prendere solo due spunti. C'è ovviamente il principio dell'ecologia, che viene appunto da un rispetto ancestrale della terra e dell'intorno in cui vivono. c'è il principio della democrazia diretta e dell'orizzontalità, che anche là viene da se vogliamo anche da un principio arcaico, che è la decisione in un meccanismo assembleare, però c'è anche questo comunque c'è da dirlo perché è importante, perché altrimenti non ci sarebbe stato, c'è un meccanismo organizzativo rigido con delle tecniche diciamo anche storiche di fare organizzazione, di creare contropotere, che è fatto di verticalità, è fatto di catene di comando, che è fatto di tecnè di lotta, non so come dite, di capacità di fare azione, di fare organizzazione tra gli oppressi e le oppresse, che viene da 200 anni di lotta di classe. Sì, riguardo a questo, per quanto riguarda la questione di genere, mi scuso sempre che siamo due maschi, magari chiudiamo. C'è stato già un primo incontro delle donne di resistenza, adesso ce ne sarà un secondo questo dicembre nel Caracol di Morelia. Avrebbe quasi da pensare, no, che ci sia una nuova fase dello zapatismo dove le donne hanno la centralità, come se la questione di genere sia iniziata l'altro ieri, e per chiudere con questa chicca, nel 1994, quando viene occupata San Cristóbal de las Casas, ancora negli annali, per farsi anche narrazioni che ci sono venute qua dall'Italia stessa, si dice che San Cristóbal de las Casas nel 94 sia stata occupata da Marcos. In realtà Marcos è arrivato dopo. San Cristóbal de las Casas è stata occupata dalla maior Anna Maria a comando di un manipolo di 900 uomini. Qui, punto. La domanda è una suggestione che ci danno un po' loro, cioè dall'inizio ci suggeriscono varie cose. Intanto che l'ideologia si scontra e si incontra con le condizioni e i contesti e viene completamente modificata. Perciò ciò che si crede giusto o sbagliato in contesti differenti, in situazioni differenti, geografiche, temporali, un esempio è loro che arrivano per fare i marxisti, i leninisti nella selva e poi capiscono che non è un'idea giusta in contesti differenti. E tutti i 20, anche 25 anni, questo continua a relazionarsi con la situazione attuale, geografica e temporale. E quindi questo ci porta all'altro grande insegnamento che abbiamo da loro, cioè che non ci sono dei bianchi e dei neri, ci sono dei grigi, ci sono una scala di situazioni per cui, come avete detto benissimo voi, in certe situazioni sì, all'orizzontalità è il bene e la verticalità è il male. In alcune situazioni l'efficacia della comunicazione in due giorni ha dovuto per forza di cose avere una verticalità di una cosa. Oppure è molto bella la sua descrizione della situazione con l'analogia di Roma, ma sappiamo che stiamo parlando di comunità microscopiche, magari di 8, 10, 16 case sulla montagna, per cui magari noi ce ne potremo da qua immaginare come delle bolle isolate di buon governo con fuori il mal governo, quando in realtà loro magari hanno una casa zapatista, una accanto dell'attrice, quello accanto pagato dal governo per rompere i coglioni, quell'altro, e in queste situazioni qua, in questi bianchi e questi neri si confondono un po', no? Per dare l'esempio, ok, la giustizia amministrata anche con l'uso in costume, ma io litigo o rubo, faccio del male a un altro, ma io sono zapatista, tu no e io sì, no? Tutta una serie di cose che si mescolano e che poi cosa ci insegna? Che è in quel momento lì che il giusto o lo sbagliato viene deciso a seconda delle contingenze, quindi ci danno una grossa botta a pensare che l'idea giusta, l'idea sbagliata, i buoni, i cattivi, no? siano una roba da verificare in quel momento lì. Un'altra suggestione è che adesso il nuovo caracollo che è stato aperto, mi sembra l'11 o il 12, comunque Cane, che è già cinto Cane, che è dentro, no, l'ultima casa, ma dentro San Cristo Bar della Scasa. E quindi per la prima volta, mentre prima per andare a Ovetic, che forse era poi più vicino, come dicevi te prima, per andare alla Realità 10 ore di cammino, adesso ce ne abbiamo uno col collettivo dentro San Cristo Bar, ma questo ci porta un'altra riflessione. È la prima volta che erano dei vicini di casa. E quindi il nuovo caracol dentro San Cristo Bar, che è aperto di sala una settimana fa, una roba del genere, è dentro la città, è una novità incredibile, perché ci porta fuori dall'idea della bolla zapatista nella selva, in cui ci si relaziona con criteri di bianco o di nero. Questa non è una domanda. Sì, ci sta, detto loro, è camminare domandando. Abbiamo anche volendo, ce l'abbiamo anche noi nella nostra cultura politica, la ricerca, l'inchiesta per cambiare la nostra direzione politica. Ecco, se l'assumi veramente questo concetto, come hanno fatto i compagni, non c'è più il dogma dell'ideologia, c'è un avanzare insieme, c'è un camminare domandando, c'è che nessuno ha le risposte, ce le diamo insieme. Sulla questione urbano-rurale, mi viene da dire che in parte comunque c'è sempre stata una dimensione urbana dello zapatismo, sia in alcune città che comunque sono abbastanza grandi, Altamirano, comunque a San Cristoforo sono sempre stati tante compagne, però appunto sì, non è mai stato, cioè quello che dicevi su San Cristoforo è vero, è pure figo riuscire a capire che vuol dire poi l'autonomia in un contesto urbano. Poi in realtà è un po' la sfida nostra, è un po' la sfida pure dei curdi, perché poi l'urbanizzazione è antinaturale, se vogliamo, pure antitetica al concetto di costruzione indigena, quindi quel tipo di autonomia. E ovviamente l'urbanizzazione è un quesito gigante, c'è lo scontro fra come si fa l'autonomia dentro la città, dentro la metropoli, anzi è la nostra sfida in realtà. Una domanda invece sul fatto se diciamo, in passato, adesso hanno avuto rapporti con le varie guerriglie del Sud America, Famaros, le comunità Mapuche che adesso stanno ribellando, o le FARC, Sandinisti, eccetera, insomma, cioè, se hanno avuto rapporti in passato e attualmente con la situazione. Poi queste sono proprio informazioni per lo sensibile, però c'è sempre stata una connessione con un internazionalismo, comunque in Sud America c'è una tradizione, ovviamente è un polo che rimane nelle sue mille contraddizioni, comunque un porto sicuro. E con le FARC sicuramente tanto, e con gli altri mi verrebbe da dire sicuramente c'è stato uno scambio, una voce in particolare, ci sono molte connessioni anche ideologiche e sicuramente ci stanno dei canali di solidarietà, di scambio di conoscenze, di scambio di capacità, che poi anche malmente ai guerrigli, da qualche parte di libera a farlo, e le capacità si devono spostare. A riguardo posso dire anche questa con certezza che è molto importante, è stata l'esperienza sandinista di Nicaragua, cominciare dal colore rosso e nero della bandiera zapatista, che ne pensa da quello che era l'FLS, il fronte zapatista, le frequenze, e possiamo anche affermare che diversi insorgentes e guerriglieri hanno preso nella Caseras Municipale del 94, molti di loro avevano già avuto un'esperienza di frequenze. Poi sul resto, ovviamente, lo diceva Gian Lorenzo, sono informazioni estremamente sensibili, non ci vengono date in pasto a noi, il nostro salotto, giustamente. Ragazzi, tanti ragazzi stanno qua con noi, siete impezzati, siamo ben contenti. Se volete informarvi di più, c'è il palchetto del nodo solidale di fianco a quello delle degustazioni. E poi, se qualcuno è incuriosito, già intenzionato, vuole andare in Messico, conosce un po' più da vicino certe esperienze, i canali, diciamo, per arrivarci ci sono. Quindi lo chiedete a me per chi sta a Bologna, o scrivete al sito della Pirata o del nodo, e insomma, c'è possibilità di scambiare. Va bene, bella, buona settimana.